GR24, il sole 24 ore. Terremoto in Emilia, 41 scosse nella notte, con le vittime di ieri sono 23 i morti del sisma, 14.000 gli sfollati. Fabbriche e chiese crollate, un intero comparto produttivo in ginocchio. Il Consiglio dei Ministri varia le prime misure a favore della popolazione colpita dal sisma, riunione alle 9 di questa mattina. Favori sui crediti, ecco le accuse per il banchiere Ponzellini. È un miracolo, guardate, è un miracolo. Era protetta da un mobile della cucina, guardate. È stata di una fortuna incredibile. Speriamo adesso di salvarla perché non era messa proprio bene. E quella che sentite è la voce di uno dei soccorritori. Ieri sera è stata salvata una donna dalle macerie a Cavezzo, in provincia di Modena, 12 ore dopo essere rimasta sotto la sua casa con il sisma delle 9:10 di ieri mattina. Ma la terra trema ancora, continua a mettere paura. Solo questa notte si sono registrate 41 scosse, oltre alle due terribili di ieri, di magnitudo 5.9 e 5.8. L'Emilia si sta risvegliando in questi minuti, e allora di sfollati sistemati nelle tende, che l'emergenza non è affatto passata, che non è ancora tempo di piangere i morti, tanti di nuovo soprattutto sotto le fabbriche, e di contare i danni, perché sotto quelle montagne di pietra il nuovo terremoto dell'Emilia ha lasciato una distruzione dalle dimensioni ancora da definire. Si è scavato per tutta la notte alla ricerca del disperso sotto le macerie dell'Emotronix a Medolla. Cavezzo, Mirandola, Medolla e poi Concordia e Novi sono uno dietro l'altro questi paesi rimasti senza le case, senza le aziende, senza il passato e anche senza le chiese crollate come il Duomo di Mirandola o la parrocchia di Rovereto, costata la vita a Don Ivan che cercava di mettere in salvo la statua della Madonna. A Cavezzo c'è chi ha perso tutto, sentiamo. Sono tutti i palazzi del centro giù, la chiesa giù, c'è tutto giù. Qui a Cavezzo è un disastro. Il centro è devastato, capannoni caduti, macerie. La mia casa è quella sotto di me. Più i negozi sono andati tutti giù. Casa sua proprio non esiste, no, non più. Non c'è più. Tutti i mobili, tutto, abbiamo perso tutto. Accartocciati su se stesso di nuovo moltissimi capannoni sotto i cumuli di lamiere e rovine in successione, quei cumuli segnano appunto l'ingresso nell'area della cratera, e sotto i loro tetti hanno di nuovo, come una settimana fa, sepolto operai alla meta di San Felice, al mobilificio di Cavezzo e a Medolla. Sentiamo. Sono crollate le pareti, il tetto non abbiamo fatto in tempo a vedere, quasi tutti hanno avuto qualche crollo. Ah, si muoveva tutto, saltavano, il tetto saltava sopra le travi di cemento che lo sostengono. Il ginnasio è caduto un pezzo che c'era dentro la gente, la gamba è crollata, la belco è crollata, la menù è crollata. Grazie a Raffaella Calandra, naturalmente la ritroveremo nelle prossime edizioni. La sequenza delle scosse sarà lunga e non si può escludere che possano avvenire altri forti terremoti come quello avvenuto ieri, dice intanto il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Stefano Gresta. Basta andare a recuperare i documenti storici sulla sequenza del terremoto di Ferrara del 1570 e guardo quello che succede come comportamento nell'Appennino centro-settentrionale. E quindi guardo più recentemente alla sequenza sismica di Umbria Marche, in cui nel corso delle diverse settimane e poi dei mesi ci sono state scosse di magnitudo simile anche lontane dalla scossa principale. Scosse di magnitudo anche confrontabile alla principale, ma non più forti. E intanto il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare già questa mattina i provvedimenti per far fronte almeno alla prima emergenza. Oggi il Consiglio dei Ministri straordinario, lunedì 4 giugno, la giornata di lutto nazionale. Ed ancora 8.000 gli sfollati che si aggiungono ai 6.000 della scorsa settimana a fronte di una macchina operativa che vede sul campo quasi 4.000 uomini. Numeri che il governo fornisce in Parlamento. Con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Catricalà e il ministro Giarda, assicuro che lo Stato farà tutto quello che deve fare, garantisce il presidente del Consiglio Monti. Naturalmente bisogna che i cittadini si rendano conto che un terremoto non è colpa dello Stato, bisogna che lo Stato si renda conto che i cittadini molto si aspettano dallo Stato quando sono colpiti da catastrofi di questo tipo. Tutto questo è chiaro. Provvedimenti per lo slittamento di tutte le tasse, ma anche dei mutui e degli sfratti, e poi lo sblocco degli investimenti per i comuni coinvolti. Queste le misure che oggi saranno varate da Palazzo Chigi, quindi il cordoglio di tutte le istituzioni, così il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Naturalmente un pensiero di grande solidarietà a tutti coloro che sono stati coinvolti, talvolta anche nei loro affetti familiari e nei loro beni e nelle loro possibilità di lavoro. Resta la richiesta del Quirinale perché si faccia luce su quanto accaduto e sull'esistenza o meno di misure preventive. Celebreremo sobriamente il 2 giugno, dice ancora il capo dello Stato, ma lo dedicheremo alla memoria delle vittime, al dolore delle famiglie e anche a momenti di scoramento che devono essere superati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È colpito al cuore il mondo del lavoro, dice il segretario della CGIL della provincia di Modena, Donato Pivanti. Ancora una volta il mondo del lavoro paga un prezzo enorme. Bisognerà capire azienda per azienda che cosa che è avvenuto. Bisogna capire se le attività erano in aziende che erano autorizzate a lavorare, che non avevano subito danni. In altri casi se erano persone intese a fare i controlli. Occorrerà verificare se il beneplacito c'era, cosa è significato su questo tipo di scossa, perché i pannoni sono caduti anche l'altra volta, come sono stati costruiti se nel rispetto della norme antisismiche allora previste. Anche il patrimonio artistico ha subito gravi danni. Al microfono di Lucio Bondi, il direttore regionale per i beni culturali dell'Emilia Romagna, Carla Di Francesco. Mirando la Carpi e Finale hanno avuto degli ulteriori danni e in particolare Mirando le Carpi i rispettivi duomi sono particolarmente gravi, nel senso che il duomo di Mirandola è pressoché sparito, c'è rimasta una parte della facciata, c'è rimasta una parte dell'abside. E ci sono altre situazioni particolarmente critiche? Ce ne sono tantissime, al di là dei crolli che sono molti di più di quanti non se ne siano visti, la situazione è veramente molto, ma molto grave. Al di là appunto di una immediata ricognizione e gli immediatissimi pronti interventi per far sì che non si danneggino ulteriormente, se ce la facciamo, altri beni culturali, poi dopo si penserà alla valutazione del danno edificio per edificio e quindi potremo pensare a ricostruire, restaurare, presidiare.